leggerai mai. Ti ascolto sempre per dimenticarmi dei guai. Ieri volevo una foto nel locale, sei scappato. A me quest'anno è andata male, mi hanno ribocciato. Figurati se hai tempo per me, che chissà quanti soldi ti sei fatto col rap. Quando sono al campetto segno e mi sento un re, ma è solo un sogno e sento che non farò mai il cash. E con le cuffie sto all'ultimo banco, ridò il compito in bianco di tutto quello che dice mio padre. Sono stanco, che devo lavorare, non pensare a ste cazzate. L'altra sera poi siamo arrivati alle mazzate. Ne ho appena fatti 20, già troppi sbattimenti. Ho rotto i legamenti, addio gli allenamenti. Mi resti solo tu, se son giù. A me basta vederti in TV o su YouTube. Ti chiedo solamente una firma per la mia tipa che non ha finito la quinta, perché è rimasta incinta e dopo che ha abortito non è presa tanto bene. Fa, mandale un saluto, pensa a lei quanto ci tiene. Io sto, ma i sogni fanno stop. Prova a scriverti su Facebook, spero tu sia il vero e non un fake, che non sei tu. Questa vita mi deprime, dammi due consigli per le rime. Frate, queste che ti invio sono le prime. Scrivo tanto e adesso c'ho pure un sacco di tempo. Mi hanno lasciato a casa, colpa del licenziamento. Frate, allego anche una foto, siamo io con la mia gente. Sono quello con la maglia dei Club Dogo fluorescente. Ed è fuori dal tuo concerto che ho comprato questa maglia fluo. E sappi che non ho mai letto un libro tranne il tuo. Giù da me potrebbero darmi una spinta, sì, ma ho scelto di restarne fuori. Frate, non voglio dargliela vinta. Jake, mandami una firma, l'indirizzo è questo qui. Che devo stringere la cinghia, ma c'ho tutti i tuoi CD. C'era Penna Capitale quando stavo all'ospedale, fra Dococrazia, quando la mia tipa se n'è andata via. La musica mi ha tolto dai problemi, sì. Perché non passi in zona, Jake? Fammi solo sapere quando vieni. Se dal palco vedi un tipo che si sbraccia, sono io. Ti saluto, fra, per sempre Doco fiero, bella zio. Io sto dove i sogni fanno.